7, 8. Entro sul beat come un trapano, lo spacco in due come un atomo. Senti le braccia che cadono, le gambe che fanno Giacomo, Giacomo, Giacomo. Freno ogni barraggio e diavolo, fuoco per fare un pentacolo. Ritornerò come Lazzaro, M.M. frate morte miracolo. Michael Myers sopra il fire, taglia questa merda, cambia questa merda in assegno. La mia fregna che tu frate jalapeño, slega così a letto frate Yana Taylor. Ogni bar un segno, senti l'oracolo, tocco palle segno. Pippo sul filo del palo bro, guido sul ciglio del baratro. La Roma nella bitacolo. È tornato M, finita la paglia. Vedi un altro rapper che si dà la macchia. Vedi la mia merda resa la tua bassa. La mia merda frate classico del Barça. La mia merda frate Asimov e Kafka. Quando rappo senti la sinocchi casca. Se mi chiedi il fit ti prendi il rischio. Lei ti schippa se mette sul disco. Guarda la mia tipa oh madonna. Senti questa mina Gesù Cristo. Sempre solo, non vi inculo. Non vi vedo cieco sordo muto. Vado a cento bevo pompo pupo. Vado tutti tipo polpo crudo. Vuoi sapere chi è il nome? Come dove? Forte, dritto al cuore. Quando fotti? Mai, ma puoi sognare. Perché? Perché lo so fare. Vendo flow, quanto vuoi? Tipo flow, quando vuoi? 10 al grammo, 100 al grammo, 1000 al grammo. Frate, quanto fanno? Vendo flow, quanto vuoi? Tipo flow, quando vuoi? Quando vuoi? Quando vuoi? Andale, andale, andale, andale. Una voce in testa mi dice di abbattere. Prendi se passi poi spaccale. Vinco le tappe, le aggiungo al mio palmare. Se me la strada da battere. Faccio sti soldi da fermo, fra beppe signori da cacciare. Lei che mi sbatte le chiappe davanti, fra come le palpebre. Come se fossero un hacker. Top per gang e sa che porto verde tutto l'occorrente. Prendi sacco cookie, propollente. Se ti cado su di faccio ratatata 24 buchi. Mangio solo booty, cago solo hit. Zero trucchi, frate solo skit. Call of Duty, Rainbow Six. Sei con tutti i 900 kids. Comodo, comodo, comodo. Sono un prototipo, tu sei un emoticon. Io l'homo sapiens, sapiens, tu buon uomo. Ti scopo col condo, balco con lo sgatolo. L'opio del popolo è quello vero. Sai che c'è il più grosso, frate un bottero. Guglielmo Tell della scena, non sbaglio. Io mai becco la mela, se scocco ti scoppio la vena. Ti fatto tutto perché sei un coglione. Mi scopo sta base e non faccio l'amore. Fra perché c'ho il cazzo più grosso del cuore. Non seguo le mode, sto con le che gode. Sveglia le nove, nengo ver lo vuole. Se rap italiano fosse in film d'azione, io sarei Stallone. Sparo tutto ciò che si muove. Vuoi sapere chi è il nome? Come dove? Forte, dritto al cuore. Quando fotti? Mai, ma puoi sognare. Perché? Perché lo so fare. Vendo flow, quanto vuoi? Tipo flow, quando vuoi? 10 al grammo, 100 al grammo, 1000 al grammo. Frate, quanto fanno? Vendo flow, quanto vuoi? Tipo flow, quando vuoi?